Capitolo 33. Il colloquio non fu né così breve né così conclusivo come la damigella aveva auspicato. Il cavaliere non era disposto a lasciarsi persuadere. Era deciso a perseverare con tutta la tenacia che Sir Thomas poteva desiderare. Era dominato da una vanità che a tutta prima lo aveva indotto a pensare che Fanny lo amava, benché non sapesse leggere chiaramente in se stessa, e che in un secondo tempo, quando finalmente fu costretto ad ammettere che ella per il momento non era davvero in grado di decifrare i propri sentimenti, lo convinse che col tempo egli sarebbe riuscito a renderli quali li desiderava. Era veramente innamorato, innamoratissimo. Il suo era un amore che, innestandosi su un'indole fattiva e portata all'ottimismo, ricca più di calore che di delicatezza, gli faceva apparire l'amore di lei tanto più prezioso in quanto veniva rifiutato, e lo determinava a conseguire insieme alla felicità il vanto di costringerla ad amarlo. Non voleva disperare, non avrebbe desistito. Aveva ragioni saldamente fondate per un duraturo attaccamento. La sapeva in possesso di tutte quelle doti che potevano giustificare in una unione le più ardenti speranze di felicità. La sua condotta, proprio in quell'occasione, testimoniando grande disinteresse e delicatezza, qualità che egli non esitava a credere rarissime, era fatta per esaltare il suo desiderio di conquistarle, per rafforzare la sua risoluzione di riuscirvi. Non supponeva di dover assediare un cuore precedentemente dato a un altro. Di questo non aveva il benché minimo sospetto. La considerava piuttosto come una creatura molto giovane che non aveva ancora pensato abbastanza all'amore da essere sentimentalmente in pericolo. Era stata custodita dalla sua stessa gioventù e da una freschezza di spirito tanto amabile quanto quella della persona, la cui modestia le impediva di capire il significato delle attenzioni che egli le prodigava e che adesso era ancora sopraffatta da una richiesta per lei improvvisa e totalmente inaspettata e dalla novità di una situazione che la sua immaginazione non aveva mai messa a fuoco fino a quel momento. Non doveva dunque conseguirne, naturalmente, che quando egli fosse stato capito niente avrebbe impedito il suo successo? Ora ne era pienamente convinto. Un amore come il suo, offerto da un uomo del suo stampo, doveva con la perseveranza ottenere il contraccambio, e fra non molto. E tale era la sua gioia, il pensiero di costringerla ad amarlo di lì a brevissimo tempo, che il fatto che per ora non lo amasse non gli sembrava deprecabile. Trovarsi di fronte a una piccola difficoltà da sormontare non era un gran male per Harry Crawford, piuttosto se ne sentiva stimolato. Aveva saputo conquistare i cuori femminili troppo facilmente. La situazione attuale era nuova ed eccitante. Per Fanny, tuttavia, che aveva già conosciuto troppi scontri e contrasti durante la sua breve vita per trovarvi una qualsiasi attrattiva, tutto quell'atteggiamento era inintelligibile. Constatò che gli intendeva perseverare, ma come ciò gli fosse possibile, dopo le chiare parole che lei si era sentita costretta a rivolgergli, non lo poteva capire. Gli aveva detto che non lo amava, che non lo poteva amare, che era sicura di non poterlo amare mai, che un cambiamento nei suoi sentimenti era assolutamente impossibile, che quella insistenza le era penosissima, che doveva supplicarlo di non accennare mai più a tutto ciò, di permetterle di congedarsi da lui immediatamente e lasciare che la faccenda fosse considerata conclusa per sempre. E quando ulteriormente incalzata aveva aggiunto che secondo lei le loro indoli erano così essenzialmente diverse da rendere un mutuo affetto impossibile e che erano inadatti l'uno all'altra per natura, educazione, abitudini, aveva parlato con tutto l'ardore della sincerità. Eppure non era stato sufficiente, poiché lui aveva replicato immediatamente che non vedeva nulla di poco congeniale nei loro caratteri, nulla di diverso nelle loro situazioni, e aveva positivamente concluso dichiarando che avrebbe continuato ad amarla. Fanny sapeva bene quello che aveva inteso dirgli, ma non poteva giudicare il tono in cui l'aveva detto. I suoi modi erano intrinsecamente gentili, e lei non si rendeva conto di quanto la mitezza dell'espressione mitigasse apparentemente la fermezza del proposito. La ritrosia, la gratitudine, la dolcezza davano ad ogni dichiarazione di indifferenza come un'impronta di rinuncia, di abnegazione. La ripulsa sembrava dar quasi tanta pena a lei quanto a lui. Mr. Crawford non era più il Mr. Crawford che, in qualità di ammiratore clandestino di Maria Bertram, insidioso e sleale, ella aveva aborrito, la cui vista le era stata odiosa, al quale aveva detestato rivolgere la parola, che aveva ritenuto incapace di nutrire una sola buona qualità e il cui evidente potere di seduzione aveva malapena ammesso. Ora egli era il Mr. Crawford che le si rivolgeva apertamente con amore ardente e disinteressato, le cui intenzioni apparivano assolutamente onorevoli e rette, i cui progetti di felicità erano tutti orientati verso un matrimonio d'amore, che si profondeva nell'enumerazione dei meriti che le riconosceva e descriveva e tornava a descrivere il proprio amore. Ne dava prova fin dove le parole potevano giungere. E inoltre si esprimeva col linguaggio, il tono, l'ardore di un uomo di talento. Diceva che egli la ricercava per la sua mitezza, per la sua bontà. E per coronare ogni cosa, egli per lei era ora il Mr. Crawford che aveva procurato a William la promozione. Vi era un tale cambiamento in lui e vi erano meriti che non potevano non contare. Fanny avrebbe potuto respingerlo con tutta la dignità della virtù indignata nella veste in cui si era mostrato a Sotherton o nel teatro di Mansfield Park, ma ora le si accostava avendo acquisito diritti che esigevano un diverso trattamento. Doveva essere cortese con lui, doveva, e doveva essere compassionevole. Doveva accettare di sentirsi onorata e, sia che pensasse a se stessa o che pensasse a William, non poteva provare se non un senso di profonda gratitudine. Tutto ciò le ispirò un atteggiamento così dolce e insieme trepido e parole tanto improntate a riconoscenza e a sollecitudine da indurre un uomo come Crawford, vanesio e ottimista, a mettere in dubbio la sincerità o quantomeno l'irremovibilità dell'indifferenza da lei professata. Né egli era tanto irrazionale quanto lo considerò Fanny, quando, prima di por fine al colloquio, le professò ancora una volta il suo amore perversante e fiducioso. La lasciò allontanare con riluttanza, ma nel separarsi da lei non v'era sul suo viso alcuna espressione desolata che smentisse le parole o che permettesse a lei di sperare che egli avrebbe agito più ragionevolmente di quanto dichiarava. Rimasta sola, però, Fanny sentì nascere un certo risentimento al pensiero di quella perseveranza così egoista e ingenerosa. Inquadrò nuovamente la mancanza di delicatezza e di considerazione per gli altri, che in lui fin dal primo momento l'aveva così fortemente colpita e disgustata. Nel suo attuale atteggiamento rispuntava qualcosa di quello stesso Mr. Crawford che ella aveva tanto riprovato precedentemente. Con quanta evidenza la pesante ottusità del sentimento e la mancanza di umanità si manifestavano in lui quando si trattava del suo piacere. E, ahimè, come si è sempre saputo, nessun principio supplisce al senso del dovere quando il cuore manca dei necessari requisiti. Anche se il cuore di lei fosse stato libero, come forse avrebbe dovuto esserlo, egli non sarebbe mai riuscito a impossessarsene. Così pensava Fanny in buona fede e quieta tristezza, mentre sedeva riflettendo e fantasticando accanto al fuoco, prova di estrema indulgenza, segno di lusso inusitato, acceso al piano di sopra, tutto per lei, e meditava sul passato e sul presente, cercando di immaginare quello che ancora doveva avvenire, in preda ad una nervosa agitazione che non le permetteva di concentrarsi. Sapeva solo, e ben chiaramente, che mai in nessuna circostanza sarebbe riuscita ad amare Mr. Crawford e che era una fortuna avere un fuoco acceso accanto al quale sedere e pensare. Sir Thomas fu costretto, o meglio si costrinse, ad aspettare l'indomani per sapere come si erano svolte le cose fra i due giovani. Poi finalmente ricevette la visita di Mr. Crawford e ne ascoltò il resoconto. La prima impressione fu di delusione. Aveva sperato di sentire migliori notizie, aveva pensato che un'ora di suppliche da parte di un giovanotto come Crawford operasse un più sensibile mutamento in una fanciulla dall'indole gentile qual era Fanny, ma gli venne rapido conforto dalla salda determinazione e dall'ottimistica perseveranza dell'innamorato. E nel vedere il principale interessato nutrire tanta fiducia, anche Sir Thomas fu ben presto disposto a condividerla. Niente fu omesso da parte sua di quanto cortesia, complimenti, gentilezza poteva contribuire all'esito auspicato. La fermezza di Mr. Crawford fu onorata e Fanny fu lodata. La conclusione del legame di parentela fu dichiarata quanto di più auspicabile vi fosse al mondo. A Mansfield Park Mr. Crawford sarebbe stato sempre il benvenuto ed egli aveva solo da consultare il proprio giudizio e i propri sentimenti circa l'opportunità di visite frequenti, sia al presente che in futuro. Nella famiglia della nipote, fra tutti i suoi parenti, non poteva esservi che un'unica opinione, un solo desiderio in proposito. L'influenza di tutti quelli che le volevano bene l'avrebbe indirizzata in un'unica direzione. Tutto quanto poteva incoraggiare venne debitamente detto. Ogni incoraggiamento fu accolto con gioia e gratitudine e i due gentiluomini si separarono come i migliori amici del mondo. Sicuro che ormai la cosa era avviata in modo appropriato e atto a dare speranza, Sir Thomas decise di astenersi dall'importunare ulteriormente la nipote e di non lasciar trapelare nessuna interferenza. Dato il temperamento di Fanny, la dolcezza, ne era convinto, era il miglior modo di procedere. Le suppliche dovevano venire solamente da una parte. La paziente indulgenza dei familiari su un punto rispetto al quale ella non poteva mettere in dubbio i loro desideri sarebbe stato il modo migliore di riuscire nell'intento. Pertanto, partendo da queste premesse, Sir Thomas colse la prima occasione per dire alla nipote, con moderata e calcolata gravità, «Ebbene, Fanny, ho visto di nuovo Mr. Crawford e ho saputo da lui esattamente come stanno le cose fra voi. È un giovanotto veramente straordinario. E comunque si risolva la cosa, devi renderti conto che hai ispirato un amore fuori del comune. Vero è che, giovane come sei e senza un'esperienza diretta della natura transitoria, mutevole, incerta dell'amore, quale lo si incontra generalmente, puoi non essere colpita come lo sono io da tutto quanto vi è di meraviglioso in una simile perseveranza che non cede allo scoraggiamento. È il sentimento che lo ispira, unicamente il sentimento. Non si arroga meriti da questo punto di vista, forse non gliene spettano. Tuttavia, avendo scelto così bene, la sua costanza ha un'impronta rispettabile. Se la scelta fosse stata meno ineccepibile, avrei condannato questa sua perseveranza. In verità, signore, disse Fanny, mi dispiace molto che Mr. Crawford continui a... So che mi fa un grandissimo onore e che non lo merito, ma sono così perfettamente convinta, e gliel'ho detto, che non riuscirò mai. Mia cara, la interruppe Sir Thomas, questa dichiarazione non è necessaria. I tuoi sentimenti mi sono noti, quanto i miei desideri e il mio rincrescimento devono esserlo a te. Non c'è altro da dire o da fare. D'ora in poi non toccheremo più l'argomento. Non avrai niente da temere o per cui agitarti. Non puoi pensarmi capace di tentare di indurti a sposare contro la tua inclinazione. La tua felicità e il tuo vantaggio sono tutto quanto ho a cuore. Non ti si chiede niente altro che di permettere a Mr. Crawford di convincerti i tuoi sentimenti non sono forse incompatibili con i suoi. Egli prosegue a suo rischio e pericolo. Tu sei su un terreno sicuro. Mi sono impegnato a che tu lo veda tutte le volte che verrà a farci visita, così come avresti fatto se niente di nuovo fosse avvenuto fra voi. Lo vedrai insieme a tutti noi con la stessa semplicità e per quanto ti sarà possibile, allontanando qualsiasi ricordo spiacevole. Partirà dal Northamptonshire così presto che perfino questo leggero sacrificio non ti sarà richiesto spesso. Il futuro rimane molto incerto e ora, mia cara Fanny, l'argomento è chiuso fra noi. Ah, la partenza prospettata era l'unica cosa alla quale Fanny poteva pensare con soddisfazione. Tuttavia, le espressioni gentili dello zio e i suoi modi concilianti furono accolti con viva gratitudine. E quando considerò quanta parte della verità non gli fosse conosciuta, si convinse di non avere il diritto di meravigliarsi per la linea di condotta che egli perseguiva. Aveva data in moglie sua figlia a Mr. Rushworth e, no, non ci si doveva certamente aspettare romantica delicatezza da parte sua. Lei avrebbe fatto il proprio dovere e doveva confidare che il tempo avrebbe reso questo dovere più facile di quanto fosse ora. Non poteva, pur nell'inesperienza dei suoi 18 anni, pensare che l'amore di Mr. Crawford sarebbe durato per sempre. Confidava che un fermo e incessante atteggiamento inteso a scoraggiarlo col tempo vi avrebbe posto fine. Quanto tempo, secondo i suoi calcoli, si potesse prevedere per la durata dell'infatuazione è tutt'altra faccenda. Non sarebbe leale chiedere quale sia l'esatta valutazione che una fanciulla fa delle proprie attrattive. A dispetto del riserbo da lui deciso, Sir Thomas si trovò ancora una volta nella necessità di parlare della cosa con la nipote, per prepararla brevemente alla necessità di comunicare la notizia alla zia, passo che egli avrebbe preferito non compiere se fosse stato possibile, ma che si era reso inevitabile data la completa disparità di vedute di Mr. Crawford, contrario a qualsiasi forma di segretezza. Egli non voleva assolutamente nascondere la situazione. Era conosciuta alla canonica, dove tanto spesso parlava del suo futuro con le due sorelle, senza contare poi la personale soddisfazione che egli avrebbe dato nel procedere verso il successo, la presenza di testimoni qualificati e informati. Quando Sir Thomas lo capì, capì anche che era necessario mettere al corrente della faccenda la moglie e la cognata, benché, per ciò che riguardava Fanny, egli temesse quanto lei le conseguenze della comunicazione fatta alla zia Norris. Di quest'ultima deprecava lo zelo intemperante, anche se esercitato a fin di bene. In effetti, in quei giorni, Sir Thomas non era molto lungi dal classificare Mrs. Norris come una di quelle persone bene intenzionate che fanno sempre cose sbagliate e assolutamente spiacevoli. Il modo in cui Mrs. Norris accolse la notizia, tuttavia, lo sollevò. Egli insistette perché Fanny venisse trattata con la più grande indulgenza e senza allusioni o commenti, e lei non solo promise, ma mantenne la promessa. Ma tutto nel suo viso rivelava la sua accresciuta ostilità. Incollerita lo era, amaramente incollerita, ma era più irritata contro Fanny per aver ricevuto una simile proposta che non per averla rifiutata. Era un insulto, un affronto per Giulia, che avrebbe dovuto essere la prescelta di Mr. Crawford. Indipendentemente da ciò, ce l'aveva con Fanny perché l'aveva trascurata e in ogni modo avrebbe visto malvolentieri una persona che lei si era sempre adoperata per avvilire, salire così in alto nella scala sociale. Comunque in quell'occasione Sir Thomas le riconobbe più di quanto non meritasse di essere capace di un comportamento discreto e Fanny quasi l'avrebbe benedetta perché si limitava a farle vedere la sua contrarietà senza fargliela anche sentire. Lady Bertram prese la cosa in modo diverso. Era stata una bellezza in prospere condizioni economiche da quando era nata, e la bellezza e la ricchezza erano quanto più suscitava il suo rispetto. Sapere che Fanny era chiesta in matrimonio da un uomo ricco la innalzò dunque moltissimo nella sua opinione. Convintasi che Fanny era molto graziosa, cosa di cui aveva dubitato prima d'allora, e rendendosi conto che poteva accasarsi più che brillantemente, vide nel fatto di chiamarla sua nipote qualcosa che avrebbe accresciuto il proprio credito. «Ebbene, Fanny», disse appena si trovarono sole dopo la grande notizia, e in verità aveva provato qualcosa che si avvicinava all'impazienza nel desiderio di trovarsi sola con lei, e la sua espressione mentre parlava aveva un'insolita animazione. «Ebbene, Fanny, ho avuto una piacevolissima sorpresa questa mattina. Devo parlarne una volta». Ho detto a Sir Thomas, almeno una volta e poi non ne parlerò più. Ti auguro felicità, cara nipote. E fissandola con compiacenza aggiunse, bene, è certo che siamo una famiglia di gente bella. Fanny arrossì e a tutta prima esitò sulla risposta da dare. Poi, sperando di circuirla, prendendola dal lato vulnerabile, disse, carissima zia, lei non può desiderare che io mi comporti diversamente da come ho fatto sinora, ne sono certa. Lei non può desiderare che mi sposi perché le mancherei, non è vero? Sì, sono certa che le mancherei troppo perché lei lo desideri. No, cara, non devo pensare a quanto mi mancherai quando un'offerta come questa si presenta sulla tua strada. Potrò benissimo fare a meno di te se sarai sposata a un uomo di così larghi mezzi come a Mr. Crawford. E devi renderti conto, Fanny, che è doveroso per ogni fanciulla accettare una proposta vantaggiosa come questa. Questa fu, più o meno, l'unica regola di condotta, l'unico consiglio che Fanny ricevette dalla zia nel corso di 8 anni e mezzo trascorsi al suo fianco. Si sentì messa a tacere. Capiva quanto il contestare quelle parole sarebbe stato poco profittevole. Se il modo di vedere le cose della zia era così contrario al suo, nulla si poteva sperare dal tentativo di far appello alla comprensione di lei. Lady Bertram era assai loquace quel giorno. «Ti dirò una cosa, Fanny», disse. Sono sicura che sei innamorato di te durante il ballo. Sono sicura che il guaio è successo quella sera. Stavi straordinariamente bene, tutti lo hanno detto. E ricordi, hai avuto Chapman per aiutarti a vestire. Sono proprio contenta di averti mandato Chapman. Devo dire a Sir Thomas che sono sicura che è successo quella sera. E continuando a seguire i suoi lieti pensieri, poco dopo aggiunse: E ti prometto una cosa, Fanny, che è più di quanto abbia fatto per Maria. La prossima volta che Pug avrà dei cuccioli, te ne riserverò uno.